Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Il peggio messo è l'Ipsia da Vinci di Matera, la migliore, la secondaria Antinori di Matelica, almeno fra le 106 scuole monitorate in 11 regioni da Cittadinanza Attiva. Tutti gli anni ne parliamo, lo faremo sempre perché l'edilizia scolastica è un tema che ci sta molto a cuore. Anche quest'anno eccolo qua il rapporto di Cittadinanza Attiva su sicurezza, qualità e comfort degli edifici scolastici. Ed eccoci qua a raccontare purtroppo come tutti gli anni che 2 scuole su 3 non hanno il certificato di agibilità statica. Significa, tanto per intenderci, che se ci fosse un terremoto non sapremmo se queste scuole restano su o no. L'Aquila insegna che il 17% delle aule registra distacchi di intonaci, che nell'anno dell'influenza A il 61% dei bagni non ha un sapone. Un bel disastro dunque, anche se qualche segno di miglioramento c'è. Adriana Bizzarri, responsabile scuola di Cittadinanza Attiva, al microfono di Savino Gallo. Ma i dati anche quest'anno purtroppo non sono assolutamente incoraggianti. La situazione è ancora difficile. Noi abbiamo monitorato direttamente, entrandoci dentro, un campione limitato, 106 scuole di 11 regioni. I problemi principali sono sicuramente i distacchi di intonaco e i segni di fatiscenza, cioè le muffe, le infiltrazioni di acqua. E questo l'abbiamo rintracciato purtroppo in tutti gli ambienti degli edifici scolastici, in misura maggiore nelle aule. Poi ci sono anche tutte quelle cose, quei dati invece legati ai comportamenti, per esempio gli incidenti a scuola. Forse pochi sanno che ci sono una quantità pazzesca di incidenti a scuola, anche gravi, e l'INAIL ne ha registrato 92.000 nell'anno 2008, con un trend sempre crescente. 90.000 erano quelli dell'anno scorso, quindi diciamo che la situazione è davvero grave e, da tanti punti di vista. Il dato positivo, che però ci teniamo ovviamente a evidenziare, sono che le attività di prevenzione sono effettivamente più curate rispetto al passato. Le prove di evacuazione, ad esempio, ormai tutte le scuole, almeno quelle da noi monitorate, le fanno, e a livello nazionale circa il 92% le effettuano con regolarità e nelle modalità corrette, quindi questo è incoraggiante. Conoscono i segnali di allarme, però per esempio troviamo i cancelli delle scuole aperte quasi nel 74% dei casi. Questo ovviamente contraddice un comportamento pericoloso, no? Perché sappiamo quanto questo possa incidere sul fatto che magari un bambino piccolo fuori esca o un estraneo facilmente si introduca. E poi ci sono anche delle curiosità, ad esempio un monitore ha scritto che in una scuola ha trovato luci soffuse come fosse un night club. Quest'anno scolastico poi c'è un problema in più. Aumentando il numero di studenti per classe aumentano anche i rischi. Ancora Adriana Bizzarri. Che cosa sta succedendo? Con l'applicazione di questo articolo del nuovo decreto del 133 del 2008 del Ministero dell'Istruzione sono stati alzati i parametri minimi e massimi del numero degli alunni presenti in ciascuna aula. Questo però, a nostro parere, potrebbe andare a aggravare una situazione di pericolosità e di insicurezza delle aule, perché sappiamo che per la prevenzione incendi ci sono leggi precedenti che dicono che il numero non dovrebbe superare i 26 alunni, o altre che dicono che la vivibilità, lo spazio di vivibilità per ciascuno studente dovrebbe essere o di 1,80 m per i piccoli o di 1,96 m per gli alunni delle secondarie. Ecco, chiediamo ai genitori, agli insegnanti, agli studenti di verificarlo. Noi regaliamo un metro e una tabella con i parametri corretti, basta fare la lunghezza per la larghezza diviso il numero degli studenti e confrontarlo con i parametri indicati. Quindi questa è una campagna che si chiama Misuriamoci con classe, e davvero invitiamo tutti a farlo perché è un problema che riguarda tutti. Riguarda invece gli studenti di Matera il problema dell'Ipsia da Vinci, ultima nella classifica di Cittadinanza Attiva. Sentiamo perché dal preside Donato Ferrara. L'istituto è in condizioni di non, al momento soprattutto, una buona percentuale del presso non è in condizioni di sicurezza, per cui noi abbiamo prorogato l'inizio delle lezioni, che anziché il 14 cominceranno il 21, proprio per permettere alla provincia perlomeno di fare quei lavori urgenti. Chiaramente inizieremo in modo disagiato perché dovremo restringere gli spazi utilizzabili. Lei dice lavori urgenti, tipo quali sono i più urgenti? I più urgenti sono nei laboratori. Noi abbiamo 7 reparti di lavorazione, sono di impermeabilizzazione, quindi dobbiamo interrompere le attività durante la stagione invernale. Cioè lei dice la prima pioggia entra l'acqua e quindi dobbiamo chiudere la scuola. Dobbiamo quindi chiudere i reparti di lavorazione e fare soltanto attività di aula. Certo, che insomma per un'Ipsia invece è importante l'attività laboratoriale, naturalmente, insomma, no? Certo. Senta, per lei non deve essere facile, perché poi studenti, insegnanti, genitori vengono sempre a lamentarsi dal preside, no? Perché certo, evidentemente è la figura di riferimento. Certo. In realtà voi più di tanto non è che potete fare. Noi insomma possiamo fare poco. Io ad esempio per poter cominciare lunedì 21 ho dovuto attivare i collaboratori, il personale della scuola. L'ho fatto lavorare fino a sera per rendere perlomeno le aule insomma decorose. Non è facile, perché poi i lavori di straordinaria amministrazione non li possiamo fare noi, ma li deve fare l'ente locale. E quindi insomma diventa tutto complicato, ovviamente, perché non gestite direttamente questa situazione. Sì. Senta, lei mi diceva del problema della pioggia che entra, ci sono altri problemi nella sua scuola? Sì, ci sono problemi dei servizi igienici. Cioè i servizi igienici cosa hanno? I servizi igienici non sono utilizzabili, non è stata fatta manutenzione straordinaria da tantissimi anni. Cioè non c'è il bagno in tutta la scuola? No, il bagno c'è, è che non è igienicamente. E quindi però ci sono dei bagni in tutta la scuola, ovviamente. Noi facciamo utilizzare quei bagni che dovrebbero essere bagni adibiti al personale tante volte. Quindi usate tutti lo stesso bagno? Per sopperire alle situazioni. Una scuola che, a mio modesto parere, dovrebbe chiudere questa di Matera, dunque. Una scuola che invece ha effettivamente chiuso, proprio dopo la denuncia di Cittadinanza Attiva. L'anno scorso era ultima in classifica la scuola dell'infanzia Leopardi di Lamezia Terme, tanto che appunto fu chiusa. Poi è successa una cosa davvero rara nel nostro paese. Sentiamo cosa da un'attonita dirigente, Teresa Goffredo. Un miracolo. In pratica, in soli 100 giorni, così poi ci è stato riferito dalla geometra del comune che ha seguito i lavori, il comune appunto ha messo a nuovo in maniera splendida questo edificio fatiscente, giudicato l'ultimo edificio in quanto a sicurezza e a stabilità. Quindi insomma è accaduto un miracolo. Esatto. È accaduto un miracolo, perché com'era l'anno scorso questa scuola dell'infanzia? Fatiscente, tant'è che l'avevano chiusa, è stata chiusa per quasi un anno, per l'intero anno scolastico, e i ragazzi, i bambini sono stati ospitati da alcuni locali che facevano parte di un'altra scuola, quindi per tutto l'anno questi bambini hanno un po' sofferto la mancanza della loro struttura. È risorta in questo ultimo periodo grazie ai lavori di ristrutturazione e l'hanno iniziato in maniera splendida col nuovo edificio che ci è stato consegnato appunto il giorno 14. Lei diceva un edificio fatiscente, cosa sì, vuol dire? Mi dice qualche particolare che ci faccia capire che davvero questa scuola aperta non ci poteva stare? Allora, in pratica era umido, c'erano delle lesioni, gli infissi erano fatiscenti, quindi era un po' in situazione realmente disastrose. E cosa vede oggi, signora? Una bella struttura, è fatta bene, curata, ci sono infissi eccezionali, luminosissima, probabilmente prima mi dicevano gli infissi erano anche più piccolini, quindi adesso hanno fatto ampie vetrate. Questi infissi erano anche pericolosi, perché si aprivano e chiaramente i bambini, anche se sono bassi, a un certo punto possono sbattere la testa, invece adesso scorrono. Sono di quelli scorrevoli, insomma sono state rispettate tutte le regole dovute. Ci sono le uscite di sicurezza, perché l'anno scorso non c'erano. Sì. Senta, i bagni? Sì, bagni perfetti, eccezionali, bagni per piccoli, bagni per gli insegnanti, c'è anche un ripostiglio che potrebbe fare da fasciatoio, da camera anticamera per antibagno, oppure per i collaboratori scolastici. Senta, mi racconti la reazione di insegnanti e genitori alla visione di questa nuova scuola? Sorpresi e felici, anche perché in pratica questa scuola, avendo vissuto questo excursus negativo, è stata anche oggetto di fughe. Molti genitori, ovviamente, giustamente, forse hanno preferito altri lidi. Invece alla riapertura si sono trovati davanti questa nuova struttura ben fatta, luminosa, confortevole, per cui credo che da quest'anno ci sarà anche una ripresa per quanto riguarda il numero dei frequentanti. La cattiva pubblicità, ecco, l'immagine che ne è uscita, ha un po' penalizzato le iscrizioni. piccoli ma anche grandi tentativi della scuola di svecchiarsi. Questo è uno. È uscita da poco una nuova antologia rivolta alle scuole superiori da adottare magari insieme ad un'antologia tradizionale. Si intitola La nuova narrativa dagli anni Ottanta ad oggi e l'ha scritta Roberto Carnero, docente di letteratura contemporanea alla Statale di Milano. L'ha incontrato Alessandra Tedesco. Gli studenti che arrivano dalla scuola superiore al primo anno, le matricole, spesso ignorano completamente la letteratura del Novecento, cioè i programmi delle scuole superiori forse sulla carta arrivano insomma fino ai giorni nostri, ma di fatto un po' perché c'è l'esame di maturità, un po' perché ci sono tante cose da fare l'ultimo anno, spesso purtroppo gli insegnanti arrivano a fare montarle Quasimodo quando va bene. In questa antologia ci sono autori come Tondelli, ma anche Silvia Ballestra e poi De Carlo o l'autore forse giovanilista per eccellenza Enrico Brizzi. Che cosa possono trovare allora i ragazzi in questo tipo di narrativa? Direi innanzitutto storie nelle quali si possono rispecchiare, perché spesso i libri proposti dalla scuola sono libri che i ragazzi sentono un po' lontani dal loro mondo. Tondelli diceva: che interesse può avere un adolescente, un ragazzo di 15-16 anni per le beghe esistenziali delle contesse delle marchese dell'Ottocento, insomma. Invece qua sono storie che spesso vedono per protagonisti coetanei, no? Dei lettori adolescenti, l'ambientazione può essere appunto per esempio il mondo della scuola, il mondo delle amicizie giovanili, le amicizie adolescenziali, quindi innanzitutto sono storie in cui i ragazzi si possono ritrovare e poi anche la lingua, una lingua spesso dinamica, una lingua che mima, cioè riproduce i gerghi, i linguaggi giovanili, e quindi c'è una idea di vicinanza, una sensazione di vicinanza che fa scattare la passione dell'immedesimazione. È tutto, se volete riascoltare questa trasmissione www.radio24.it, dove potete anche ripercorrere e studiarvi un po' meglio il rapporto di cittadinanza attiva sulla sicurezza scolastica. Noi ci risentiamo sabato prossimo, come sempre, alle 12.45.